come associazioni che si occupano di mobilità sostenibile ma anche di educazione, abbiamo costituito una rete che si chiama Strade Scolastiche School Streets, in cui dentro ci sono sia soggetti come il nostro, Strada Ciclisti Bologna, che si occupa prettamente di mobilità sostenibile, ma anche ad esempio l'Associazione Italiana dei Pediatri, quindi anche soggetti che si occupano invece prettamente di educazione. Quindi con questa cordata di associazioni con cui già abbiamo promosso alcune azioni per diffondere l'esistenza di aree pedonali nei pressi delle scuole in tutta Italia, abbiamo ritenuto questo spot diffuso sia via radio che in televisione, spot dell'automobile Jeep del gruppo FCA, l'abbiamo ritenuto veramente vergognoso e soprattutto lesivo dal punto di vista dell'educazione dei bambini, perché strumentalizza l'immagine di un bambino, insomma, facendo del sarcasmo veramente fuori luogo dal nostro punto di vista sul fatto che il bambino con la macchina più costosa e più grossa possa andare a scuola quando c'è la neve, mentre gli altri bambini non vanno a scuola e tra l'altro si divertono molto di più, ma probabilmente questo tipo di spot fa presa su quei genitori che ritengono un valore poter offrire al proprio figlio qualcosa che economicamente gli altri non si possono permettere. Ecco, quindi uno spot classista e che strumentalizza i bambini per parlare ai genitori. Questo va contro i diritti dei minori, quindi noi abbiamo ritenuto che ci fossero gli estremi per fare una segnalazione all'Istituto di Autoregolamentazione della Pubblicità, cosiddetto IAP, che si occupa appunto di tutelare che i messaggi pubblicitari diramati non vadano a utilizzare negativamente i bambini. I In teoria bambini. non si potrebbero usare i bambini per vendere dei prodotti, possono comparire nelle pubblicità, ma non possono essere strumentalizzati in questa maniera, secondo proprio il regolamento e la normativa italiana. Quindi noi abbiamo rilevato questo tipo di violazione, sia comunque il fatto di rappresentare il bambino triste e solo, negare il suo diritto al gioco, al movimento. Abbiamo un grave problema in Italia di bambini affetti da obesità, da sedentarietà, addirittura dei livelli di quasi inabilità motoria a causa del poco movimento che i bambini fanno. Quindi assolutamente è un tema educativo che non può per noi essere liquidato con la scusa, una pubblicità, ironico, i bambini non capiscono l'ironia, spesso questi messaggi raggiungono i bambini per parlare poi ai genitori. Quindi abbiamo ritenuto di fare questa segnalazione, abbiamo mandato più segnalazioni sul portale IAP dell'Istituto di Autoregolamentazione Pubblicitaria, c'è una sezione destinata alle segnalazioni, quindi noi abbiamo proceduto e insieme a noi tutte le associazioni che fanno parte di questa cordata per le strade scolastiche. Speriamo che questa pubblicità venga ritirata perché secondo noi è assolutamente inaccettabile. Tra l'altro, ho notato che la versione radiofonica è ancora più potente, nel senso che nella versione radiofonica ci sono dei commenti ancora più deleteri rispetto ai sentimenti del bambino, che invece nella pubblicità televisiva poi c'è il lieto fine, la bambina che si ritrova col bambino nella scuola, eccetera. Ci sono tutti gli estremi perché questa pubblicità venga ritirata, perché è inammissibile che l'industria dell'automobile, pur di vendere più macchine, rappresenti i bambini in questo modo qui. I bambini sono la parte più fragile della nostra società, vanno tutelati, vanno protetti, non sono solo dei consumatori, non sono soltanto parte, diciamo, dell'industria del consumo, ma sono soprattutto dei soggetti in via di formazione e di apprendimento, quindi che hanno una recettività anche ai messaggi diversa da quella che hanno gli adulti. Questa chi si occupa di educazione lo fa bene, quindi è molto deprimente leggere commenti di chi vuole minimizzare o dire solo la pubblicità. Questo è un messaggio che nella mente di un bambino ha precisi significati. E chi come noi va in bicicletta tutti i giorni sa che spesso i nostri figli, che pure hanno una salute di ferro e godono appieno il piacere di poter muoversi e di poter stare all'aria aperta, spesso tornano a casa dicendoci: i miei compagni mi dicono che noi siamo poveri perché non abbiamo la macchina, perché nella nostra società ancora si associa a ricchezza l'utilizzo dell'automobile. Questi sono proprio i messaggi che discriminano e che mettono i bambini su livelli diversi a seconda del potere economico delle famiglie. Quindi anche questo è un messaggio assolutamente inaccettabile. In realtà ho visto anche un'altra pubblicità molto deleteria nei confronti della cittadinanza, dei centri storici, e mi riferisco a quella dell'Alfa Romeo, dove c'è una macchina impazzita che corre per le strade di Firenze, fa danni a tutto spiano. Anche quella è Sì, anche quella una roba deletoria. pubblicità, tra l'altro nella normativa che disciplina i messaggi pubblicitari, si dice esplicitamente che un messaggio pubblicitario non deve indurre l'utente ad avere comportamenti pericolosi o sconsiderati. Quindi è chiaro che anche questa pubblicità viola la normativa che regolerebbe i messaggi pubblicitari. Speriamo che questi prodotti non vendano e che ci si renda conto che questa modalità di comunicare è dannosa per tutta la società civile.